Letture di Radio 24. Le continue sconfitte subite dall'ISIS hanno costretto il califfato a inventarsi nuovi modi per far cassa, aumentando le tasse, creandone di nuove e sostituendo pagamenti in denaro alle punizioni corporali. Se le donne non si coprono per bene gli occhi dietro tripli veli, $10 di multa. Se portano una abaya troppo aderente, $25. Se tralasciano di indossare i calzini o i guanti, $30. Per gli uomini che si radono, $100 di multa. Per quelli che si accorciano la barba, $50. E per chiunque non sappia rispondere ai quesiti sul Corano o la legge islamica posti a sorpresa dalla isba ai vigili del califfato, $20. Grazie alle offensive anti-ISIS e ai bombardamenti in Siria e in Iraq, tra dicembre e marzo il califfato ha perso il 22% del territorio che controllava. Questo non significa che non possa sferrare nuove offensive, come dimostra la recente avanzata nord di Aleppo. Ma meno territorio significa anche meno abitanti da tassare, sono passati da 9 a circa 6 milioni, mentre i bombardamenti hanno danneggiato la principale fonte di introito, il petrolio. Così, negli ultimi 6 mesi, i miliziani sono stati costretti a inventarsi modi nuovi per riempire le casse, come aumentare le imposte e le multe, ma anche introdurne di nuove. Per esempio, per chi si spunta la barba, lascia la porta di casa aperta, installa o ripara antenne satellitari. Le tasse costituiscono oggi la metà circa del budget di $56 milioni al mese dell'ISIS, secondo un rapporto della Società di Consulenza e Analisi di Difesa, IHS. I loro dati sono raccolti attraverso interviste, social media, documenti dell'ISIS e del governo iracheno. Le tasse riguardano ormai ogni aspetto della vita della popolazione e vengono stabilite dall'alto, anche se i governatori locali hanno una certa discrezionalità. Sono suddivise in 5 categorie: comportamenti sociali, istruzione, agricoltura, controllo dell'ordine pubblico, servizi. Oggi i camion devono pagare tra i 600 e i $700 ai posti di blocco dell'ISIS, il doppio rispetto alla scorsa estate. Oltre alle tasse sui non musulmani, lo Stato islamico richiede anche che i musulmani non sunniti, gli ex membri delle forze di polizia e gli ex funzionari dei governi siriano e iracheno comprino un certificato di pentimento. Prima si pagava una volta all'anno, adesso ogni mese. Le imposte sociali sono quelle riscosse con più forza, spiega Ludovico Carlino, ricercatore di IHS. A febbraio e marzo abbiamo visto la polizia della moralità diventare più dura e più rigida con la popolazione, osserva Carlino, ma abbiamo anche notato un fenomeno interessante. Lo Stato islamico ora accetta versamenti in denaro al posto delle punizioni fisiche, un altro segnale delle loro difficoltà economiche. Le casse meno piene significano però anche maggiori rischi per i civili. Negli ultimi giorni alcuni miliziani hanno diffuso per la prima volta sui social network foto di schiave yazide in vendita per $8,000. Acquistate online da miliziani sempre più squattrinati, con meno cibo e medicine, e il pericolo delle bombe. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Viviana Mazza, Barbe, sigarette e alcolici. Ecco le tasse del califfato. Dal Corriere della Sera del 30 maggio. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Letture di Radio 24. Non esiste invasione. I numeri dei migranti sono sempre gli stessi. Si sono subito affrettate a dire sia la Boldrini, presidente della Camera, sia la Pinotti, ministro della Difesa. Di fronte alla ormai quotidiana cronaca di sbarchi di massa, che si mescolano con i sempre più frequenti casi di barconi affondati. Ma dietro alle tragedie ci sono anche dei costi non indifferenti. Come scrive Mario Giordano su Panorama, lo scorso anno l'accoglienza dei profughi ci è costata 3,3 miliardi di euro. Un business molto redditizio che attira speculatori e avventurieri privi di scrupoli, multinazionali e comitati di lotta che fingono solidarietà solo per sfruttare gli immigrati. Il sistema di accoglienza italiano si basa su due pilastri, entrambi sbagliati. Il primo è quello delle convenzioni con i privati. Funziona così. Le prefetture ricevono dal Ministero un certo numero di richiedenti asilo e li devono smistare sul loro territorio attraverso convenzioni con le associazioni. Sono i famosi bandi che prevedono dai 30 ai 35 euro al giorno per ogni immigrato preso in carico. Per dire, chi si porta a casa 100 immigrati incassa 100.000 euro al mese. Considerate che per mantenere 100 immigrati in locali di risulta e con cibo scadente, 50.000 euro al mese sono più che sufficienti. Ergo, chi si impossessa del bottino ed è dotato di sufficiente spregiudicatezza, ha la possibilità di realizzare un guadagno netto di 50.000 euro al mese. Una somma di tutto rispetto. Questo sistema fa da richiamo per affaristi e avventurieri di ogni tipo, attratti dal business. Non a caso la gestione degli immigrati in Italia è oggi appaltata a società edili, istituti per odontotecnici, imprese di logistica per aziende, rider di borsa, albergatori falliti e persino dall'associazione folcloristica Sicilia Bedda, specializzata in balli a chiovo, bummulo, marranzano, taranta, tarantella e mandolino. E il servizio diventa sempre più scadente. Scarsi corsi di italiano, ancor meno quelli di formazione, poca assistenza per aiutare l'integrazione. Se paghiamo personale, come facciamo a guadagnare, ammettono molti di costoro senza vergogna. L'accordo diretto tra prefetture e privati genera un altro problema. Vengono completamente scavalcate le autorità locali, in particolare i sindaci, che spesso si vedono paracadutare gli immigrati nel loro territorio senza nemmeno essere avvertiti. Funziona così. L'associazione stipula l'accordo con la prefettura, poi cerca i locali idonei dove capita, facendo un contratto d'affitto con un privato. Il municipio viene completamente scavalcato e questo è un vero peccato. Le migliori esperienze di accoglienza che si conoscono, infatti, sono quelle che passano dal coinvolgimento dei comuni. Succede in Germania, succede in altri paesi esteri e succede anche in Italia, dove la rete di seconda accoglienza, il cosiddetto SPRAR, basato appunto sui comuni, funziona assai meglio di tutto il resto, nonostante qualche caso di clamorosa follia. Il secondo pilone dell'accoglienza, altrettanto nefasto, è quello dei grandi centri, modello Cara di Mineo. Ricordate l'anno scorso quante volte fu annunziata la chiusura dopo l'omicidio dei due anziani di Palagonia da parte di un richiedente asilo? Ebbene, ovviamente il Cara di Mineo è ancora lì, con tutto il suo carico di inchieste e di malaffare. Così come è lì il Cara di Bari, anch'esso finito sotto inchiesta da parte della Procura di Bari. Non contenti, ne stiamo progettando altri. A Civitavecchia sono stati stanziati 5 milioni di euro per creare un CARA in un quartiere dove non sono ancora arrivati luce e fognature, con ovvia irritazione della popolazione locale. Come mai questo modello che ha dato pessima prova non viene abbandonato? Difficile dirlo, ma di sicuro lì attorno girano ingenti somme. Lo dimostrano le inchieste in corso sulla gestione di diversi centri, da Mineo a Bari, passando per Gradisca di Sonzo, ma anche il fatto che alcuni di essi in Italia siano gestiti da una multinazionale francese, l'ex GDF Suez, già alleata di Carlo De Benedetti nella centrale a carbone di Vado Ligure, ottavo produttore di energia al mondo e vera e propria potenza del business internazionale. Secondo voi le multinazionali si immischierebbero nella gestione degli immigrati se essa non fosse un buon affare? L'accoglienza diretta, cioè 35 euro al giorno per vitto e alloggio, è costata l'anno scorso all'Italia 3,3 miliardi di euro. La cifra è stata quantificata dal governo nella lettera in cui chiedeva flessibilità alla Commissione europea. Quest'anno probabilmente saranno di più, cioè oltre 4 miliardi. Per intenderci, il doppio di quel che servirebbe per dare gli 80 euro a tutti i pensionati al minimo. A questo vanno aggiunte le altre spese ancora maggiori. Basti pensare all'assistenza sanitaria o al patrocinio gratuito. Che poi 35 euro al giorno per ogni immigrato siano una cifra esagerata lo dimostra non solo il fatto che in Germania si dà all'incirca un terzo, ma anche il fatto che alcune associazioni, e persino un comune, ci facciano la cresta sopra. Prendono l'appalto dalla prefettura e subappaltano a cifra inferiore incassando la differenza, senza nemmeno sporcarsi le mani. Un altro miracolo italiano della nostra accoglienza, tanto pirotecnica quanto disastrosa. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Mario Giordano? Noi invece li parcheggiamo da Panorama del 1 giugno. Nel panorama sempre più desolante dell'editoria cartacea ci sono anche esempi di gruppi editoriali salvati a un passo dal fallimento e riportati a risultati positivi, come Le Monde, e altri invece come il Guardian, che hanno puntato tutto sul rilancio nel digitale, ma con risultati non sempre convincenti. Di che cosa parliamo dunque quando parliamo di futuro dei giornali? Si domanda Christian Rocca, direttore del Magazine Il, nell'introduzione di uno speciale sull'editoria pubblicato sull'ultimo numero della rivista. Nessuno sembra avere la soluzione, ma la tesi più sensata mi sembra quella di Joshua Topolsky, cofondatore del sito The Verge e di Vox Media. Topolsky spiega che il business dei media tradizionali non sarà salvato dai video, né dagli algoritmi o dalle newsletter. Non servono nemmeno nuove app, esperienze innovative di lettura su iPad, live video, infodata, integrazioni con i social, canali su Snapchat, gruppi su Telegram o partnership con Twitter. Tutte queste cose assieme, secondo Topolsky, potrebbero anche essere utili, ma saranno sempre fuori sincrono rispetto alla nuova magia tecnologica prossima avventura che tutti quanti sosterranno che, questa sì, risolverà il problema. Ma il vero problema dell'editoria, ha scritto Topolsky, è che si producono stronzate. Un mare di stronzate. Stronzate di bassa lega che non interessano nessuno. E questo mentre un pubblico sempre più consapevole, sempre più connesso e anche capace di cambiare idea, non riesce a trovare altro che questa robaccia. E non la vuole. Vuole roba buona, che andrà a trovare altrove e che addirittura pagherà per averla. Nel breve è probabile che le cose andranno peggio, secondo il vecchio adagio per cui le cose devono andare molto male prima di poter andare molto bene. Ma il futuro dei giornali non può essere inseguire i lettori e le mode, abbassando il livello dell'offerta nel grottesco tentativo di ampliare la base e di scimmiottare lo spirito del tempo. Il futuro dei giornali è il passato. Scommettere sulla storia e sulla credibilità delle testate, puntare sulla qualità dei contenuti, raccontare storie, scriverle bene, coltivare talenti, analizzare gli eventi, stupire e far circolare nuove idee utili e divertenti per i lettori. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Christian Rocca? Di che cosa parliamo quando parliamo di futuro dei giornali? Dal numero di giugno del Magazine Il. Ogni anno una famiglia italiana spende in media 2.180 euro per la propria auto, tra carburante, manutenzione e ricambi. A queste vanno aggiunte le spese per l'assicurazione, il cui costo medio è di 439 euro. E poi c'è il bollo, che qualcuno ha proposto di abolire, ma anche se verrà cancellato, il fisco si rifarà aumentando le accise sui carburanti. Alla fine, quindi, il vero affare lo fa sempre lo Stato. L'auto è un lusso. Mantenerla e utilizzarla costa in media a ogni famiglia che ne possiede una circa 182 euro al mese, sempre che si riesca ad acquistarla senza prestiti. Altrimenti a questa cifra si dovrà aggiungere la rata del finanziamento. È un lusso a cui gli italiani però non sanno o non possono rinunciare. Spostarsi in modo alternativo con i trasporti locali o i treni per i pendolari può trasformarsi in una odissea. Magari spendiamo meno per mangiare e per vestirci, visto che le vendite al dettaglio continuano a soffrire, ma per l'automobile siamo disposti al sacrificio. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili relativi al 2014, le famiglie spendono in media 2.180 euro all'anno, 1.555 per carburanti e lubrificanti, 250 euro per manutenzione e riparazioni varie e circa 200 euro per pneumatici, pezzi di ricambio e accessori. Per non parlare dell'RC Auto, che secondo la più recente rilevazione IVAS ci costa in media 439 euro all'anno e del bollo che ogni tanto qualcuno promette di cancellare. L'abolizione della tassa sulla proprietà, che vale circa 6,1 miliardi all'anno, però non avverrebbe gratuitamente. In cambio il fisco, per coprire il buco, dovrebbe aumentare di 15-16 centesimi al litro le accise sui carburanti. A rimetterci, insomma, sarebbero quelli che percorrono più chilometri. Chi ci guadagna di più dalla passione italica per le quattro ruote alla fine? È sempre lo Stato. Il gettito fiscale dell'intero settore nel 2014 ha portato nelle casse pubbliche circa 71,6 miliardi di euro, in aumento dell'1,7% rispetto all'anno precedente. A calcolarlo è stata l'ANFIA, l'Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche, che ha anche registrato come il peso del bollo, da un anno all'altro, sia aumentato del 7,7%. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Barbara Cataldi, Auto quanto ci costi? Il vero affare lo fa sempre lo Stato, dal Fatto Quotidiano del 30 maggio. Non può finire così, quasi peggio di com'era cominciata. Ed era cominciata malissimo, con un bimbo del Bangladesh emigrato a Schio, in provincia di Vicenza, e costretto ogni giorno a vedere le mani del padre abbattersi sul volto della madre. A 7 anni non può difenderla, ma solo cercare di difendersi, evadendo in un altrove. La scuola. Abu, nome finto di una storia vera, ama le maestre, i compagni e i libri. Sono la sua famiglia. Impara in fretta l'italiano, e talmente bene da diventare il primo della classe. Intanto il padre finisce in galera per aver tentato di ammazzare la moglie, che va a rifarsi una vita con un altro uomo in un'altra città. Abu si trasferisce dagli zii materni che lo adorano e lo vorrebbero adottare. Il lieto fine sembra dietro l'angolo. A rovinarlo è una buona notizia. Gli zii hanno ottenuto un lavoro in Inghilterra. Devono partire subito, altrimenti lo perderanno. Ma non vogliono perdere Abu. Per portarlo con loro serve il consenso del padre, che dalla galera da cui sta già per uscire glielo nega. Pur di scampare alle grinfie di quell'uomo, Abu è costretto a tornare subito in Bangladesh, dentro un quartiere miserabile, nella baracca di una nonna cieca. Le maestre e i genitori dei suoi compagni si ribellano, gli avvocati studiano le carte per il ritiro della patria potestà e gli imprenditori vicentini pagano le spese. Quest'Italia, che qualcuno descrive razzista, si rivela meravigliosa nel sostenere chi se lo merita. Là, nel buco del mondo, sradicato dai suoi affetti e dai suoi libri, un piccolo italiano ad honorem aspetta col cuore gonfio di nostalgia e di speranza. Non può finire così. Troppo peggio di com'era continuata. E quello che avete ascoltato era la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, Italiano ad honorem, dalla stampa del 1 giugno.